Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Conti in tasca o conti in banca, potremmo titolare questo appuntamento, il primo di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Parliamo di conti correnti, appunto, sappiamo che sono molto costosi, solo se si è giovani si riesce magari a risparmiare qualcosa. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, è proprio così, sappiamo che la voce di spesa, di gestione dei conti correnti è piuttosto alta, facciamo qualche numero. Ma diciamo Mirko che ogni volta quando le banche vanno sotto i riflettori dell'antitrust troviamo sempre delle sorprese e certamente per gli ascoltatori scoprire che comunque alla fine i conti correnti, o meglio le spese di gestione di un conto corrente in banca in Italia si conferma sempre comunque per più cari d'Europa, certo non è una sorpresa, ma questa volta invece il dato curioso, ma che comunque deve essere un dato che ci fa riflettere, è quello che alla fine il conto corrente conviene solamente se si è giovani, e a dichiarare è stato l'antitrust da un'indagine che ha iniziato nel 2011 e si è conclusa poco tempo fa. Quanto può costare allora mediamente, perché poi è chiaro che dipende dal tipo di contratto, dal tipo di offerta, dalla banca, ma insomma mediamente quanto costa un conto avere solo un conto corrente? Allora, normalmente da quelli che sono gli osservatori che più di qualche volta anche l'Adico ha fatto, come l'antitrust in questa indagine eccetera, diciamo che un conto corrente poi va a costare anche circa 200 euro, ma quello che è curioso, come se si è giovane, addirittura è stato l'antitrust a dire questa volta che si può arrivare a risparmiare 180 euro. Ma di tutto questo la cosa che emerge ancora più è non tanto quanto uno può risparmiare se è giovane, che comunque possiamo capire che normalmente i giovani sono quelli che non hanno lavoro e che normalmente sono già chi è cliente di una banca, i genitori che aprono un conto a un figlio o qualcosa, come normalmente i conti più costosi normalmente sono quelli che riguardano il 70% delle banche che hanno la maggior clientela. Cioè, se una banca è più piccola, il conto corrente costa meno? Traduciamo così. Sì, perché addirittura sembrerebbe che avere una banca piccola comunque permetta anche una contrattazione più flessibile rispetto a quella che è una banca magari radicata più a livello nazionale, dove magari i margini di autonomia che hanno sono più risicati, perché comunque hanno delle direttive che certamente non hanno molto margine quelli che sono direttori, che hanno i direttori delle filiali. Però è anche vero che poi ci sono anche quei conti online di quelle banche che magari di qualcuno mai già magari ha, che comunque permettono anche quelli di avere delle condizioni. Ma attenzione, perché comunque il nostro avviso come Adico diciamo sempre di desistere da quelle che possono essere certe offerte, perché normalmente sono, come dire, offerte di ingresso che poi con il tempo vanno ad adeguarsi e alla fine ci perde anche quella che normalmente è una convenienza guadagnata all'inizio. Vado ancora più dritto, cioè il costo zero non esiste, perché non c'è nulla che costi zero. Ma sostanzialmente non può esistere, perché ci sono dei importi fissi commisurati non dalla banca ma dallo Stato, già per esempio per la gestione del bancomat, ma per quanto riguarda anche la tassa vera e propria che una persona, un correntista ha su quella che poi è stata l'ultima tassa che anche il governo ha emesso l'anno scorso, alla fine del 2012, che era una mini patrimoniale che andava da un minimo a un massimo a seconda di quella che era la disponibilità che una persona ha in conto, per cui è impossibile avere un conto corrente a spese zero. Diciamo che si può contrattare delle condizioni che sicuramente possono essere molto vantaggiose, e come in questo caso un antitrust a dire che sono i giovani a risparmiare molto di più, perché sappiamo che i giovani normalmente sono i figli di chi è già un correntista e poi diventeranno magari facilmente clienti quando diventeranno adulti veri e propri e magari lavoreranno, per cui alla fine è anche un investimento che le banche fanno, però normalmente non c'è molto da elogiare le banche, ma c'è da riflettere su questo che è il dato dell'antitrust, e ci auguriamo che nell'occasione di questa indagine non si evidenzi la convenienza della gestione di un conto per un giovane, ma si vada a puntare il dito su quello che è un costo invece che i correntisti hanno e che si spera vengano sanzionate, come spesso accade. Parliamo anche dei servizi che le banche erogano. Sappiamo, molti utilizzano evidentemente il RID, cioè il pagamento automatico delle bollette o di alcuni servizi. Una voce sulla quale a volte si rischia di spendere molto è quella dei bonifici. Cosa è stato scoperto? Sì, come dici te, purtroppo il conto corrente normalmente ormai bisogna comprendere come sostanzialmente non danno più interessi, e le banche sempre più frequentemente nascondono il fatto che non danno più interessi perché dicono che danno dei servizi. Addirittura dall'indagine ho scoperto come per esempio ci sono certe banche dove per esempio per effettuare un bonifico un cliente deve pagare addirittura 7 euro. Questo cosa vuol dire? Che per l'ennesima volta ci troviamo come magari un conto corrente può avere delle condizioni iniziali favorevoli, poi all'occorrenza quando si ha bisogno o si ha necessità o si effettuano certe operazioni veramente si scopre di tutto, e per esempio il caso dei bonifici, ma addirittura ci sono banche che ti fanno pagare per esempio se vai a prelevare soldi alla cassa, quindi anche questo è incredibile perché come io sono un cliente tuo ti do i soldi a te, e devo pagare una commissione se vado a ritirare i soldi alla cassa, cioè, quindi sempre molta attenzione e ripeto di esistere sempre da quelle che sono delle condizioni iniziali, perché molte volte dall'abbaglio di una rata o dall'abbaglio di uno slogan si rischia poi di sottoscrivere dei contratti che alla fine scopriamo come avendo una disponibilità in banca alla fine si va anche sotto rispetto a quello che è una disponibilità iniziale su cui una persona poteva contare. Senza contare poi anche la quantità delle operazioni, perché alcuni contratti prevedono anche dei limiti in alto o in basso per la gratuità delle operazioni. Ah sì, e poi andiamo a scoprire come magari nel caso che uno magari sfora leggermente, oppure come magari uno si supera quello che è la disponibilità di un quantitativo di operazioni che ha all'anno o al trimestre, veramente poi si applicano tutta una serie di meccanismi che alla fine fanno perdere anche quelle che sono le convenienze. Certamente io dico, oggi c'è internet per esempio, può essere un ottimo strumento per confrontare le offerte, però ribadisco di esistere dalle condizioni iniziali di accesso, ma cercare di avere la pazienza di leggere, e poi purtroppo sapere che con troppa disinvoltura le banche, una volta che ti propongono un contratto, vanno sempre ad adeguarlo, per cui alla fine scopriamo che alla fine tutte le banche si uniformano e alla fine chi si rimette, chi paga è sempre il cliente. Sono le famose variazioni unilaterali del contratto sulla quale tu puoi solo prendere atto e leggere. Con questo consiglio allora di fare attenzione come sempre, magari di cambiare, vale per i contratti telefonici, può valere anche per le banche, di cambiare fonte e riferimento. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento, Carlo, con un altro argomento. Grazie, buona giornata. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.